carta igienica Scottex. Morbida, resistente e lunga. Lunga, resistente, morbida. Carta igienica Scottex. 10 piani di morbidezza, 10 rotoli di convenienza. Ehi, c'è una novità. È nata una nuova, morbida, bellissima carta igienica. Scottex Decoré. La morbidezza decorata e firmata Scottex. Comincia il territorio romano! Fermatevi! Non se passa! Chi siete? Barbari! Che cosa volete? Distruggere Roma! Dove passo io non cresce più l'erba, caro! Ma tu come ti chiami? Attola! Come? Attola! Come? Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lag di sangue e A come adesso venga e ti sfascia le corna. Potete volare! Eccoci. Vi siamo mancate. Siamo tornate. Vi siamo mancate. Cioè, è un'affermazione, non è una domanda. È proprio un'esortazione. Vi siamo mancate. Yeah. Vi esortiamo a a sentire la Madonna. La nostra via crucis. La nostra Madonna. Le passioni di Cristo. Ripartiamo alla grande dopo un mese, praticamente, sì. Che per varie ed eventuali... Lavorative, trasferimenti lavorativi, sì. Sono girata le cuffie. Ecco. Siamo tornate in pianta stabile a Firenze e, che dire, io ho perso completamente il filo delle scorse trasmissioni. Ma non importa, perché all'inizio della scaletta c'è scritto tutto. Cara mia, non ci sfugge nulla qui alla brusca. Allora, l'altro, visto che da tanto ridiciamo un po' di contatti, uh-huh. Tante volte hai visto qualcuno. Sai mai che qualcuno se li sia dimenticati? Perché ascolta solo noi, no? Il sito dal quale probabilmente ci state ascoltando, wombat.noblogs.org. Come probabilmente. Sì, perché la M è giù questi giorni. Ragazzi. La nostra frequenza è M1359 giù, quindi sicuramente se ci state ascoltando è dal sito. Poi abbiamo Twitter, twitter.com/radiowombatfi. Poi abbiamo la mail, posta wombat@insiberia.net. Che è la mail più bella del mondo. Chiaro. In Siberia. E poi facebook.com, radio-wombat-firenze. Anche se direi che tra tutti questi il canale forse più utilizzato è il Twitter. Perché magari con le trasmissioni non lo aggiorniamo spessissimo, ma quando ci sono eventi live, soprattutto eventi live, ma che siamo RTL? E quando comunque ci sono appuntamenti, dirette, cortei, manifestazioni e quant'altro, potete seguire appunto i nostri live qui su Twitter. Che devo dire stanno venendo sempre meglio, perché ci stiamo specializzando. Davvero. Sì, devo dire, ogni diretta, ogni evento sta diventandosi sempre più curato nei dettagli. Sì. E poi per il nostro palinsesto aggiornato potete sempre andare sul sito, quindi da cui ci state ascoltando, cliccando sull'apposita sezione palinsesto e troverete le repliche e tutte le dirette. Tra l'altro è stato fatto anche un miglioramento alla sezione podcast, per cui quel vecchio problema che qualcuno aveva con la finestra tendina dei vari nomi delle trasmissioni non c'è più. È stato risolto in maniera molto abile e tecnicamente scaltra da uno dei nostri amici. E quindi grazie a chi ci ha messo le mani. Davvero. E ora anche dal vostro telefonino, ovunque, potete ascoltare tutti i podcast. I nostri podcast e le nostre trasmissioni, e scaricare col podcast non è reato. Ecco. E quindi scaricate. Non farlo è reato. Vi arresteremo a tutti se non scaricate i nostri podcast dell'Accademia della Brusca. Galeotti. Ecco, appunto. Partivamo da lì, per l'appunto. Ma quanto siamo cariche? Sembriamo, sembra la prima sembra puntata da un anno. Le vacanze di settembre. No, Vedi, no. Ci voleva per una bella pausa. Sì, sì. Si recupera. Anche se in realtà eravamo comunque qui, voce. Però a fare altre cose, ma sì, va bene. Io volevo fingere di essere stata in Polonia, ma non ci ho creduto nessuno. vabbè. E quindi, si diceva, puntata precedente di quasi un mese fa. Che avrete risentito un milione di volte. Io ho avuto testimonianza di un nostro fedele ascoltatore che ha apprezzato molto la puntata sulla glossopoietica. Ah, sì. E sotto la mia algida, il mio consiglio, ha deciso di ascoltare anche questa puntata sul significato antonomastico. Quindi da Galeotto a Manigoldo abbiamo spiegato quasi l'etimo, che etimo non è, ma quindi il significato appunto per antonomasia di questi nomi, e mi ha detto che gli è piaciuta molto. Vedi. Ci ascolta da Firenze e gli faccio un saluto, lui sa chi è. Ciao. Anche tu lo conosci, te lo dico dopo chi è. Bene. La mia curiosità, ecco, mi brucia. Bevuta un goccino di birra. E oggi parliamo appunto, siccome abbiamo fatto tanti esempi durante la scorsa puntata, oggi faremo un po' di introspezione e parleremo di antonomasia. Quindi vi diremo un po' ovviamente tutti i vari crismi essenziali sull'origine del nome, qualche esempio, e ci saranno delle belle sorpresine. 19:37 siamo in diretta e partiamo. Che faccio? Parlo o mettiamo? Ma parlo. Dai, ma la gente aspetta. Non aspetta altro. Da mesi ormai. Non aspettava altro. Hai voglia? Sì. Bene. Sì. Ti vedo in forma quest'oggi. Sì, ho passato il pomeriggio al telefono con le redazioni, per cui mi devo sfogare. Vai, fallo. Allora. Antonomasia, che deriva dal verbo greco antonomazo, cambiare nome. Si intende una figura retorica utilizzata con diverse funzioni e diversi scopi. Il caro Pierre Fontanier, che è stato un linguista e un importante, come si può dire, filologo anche, mi sembra, dice che le principali funzioni di questa figura, che è l'antonomasia, sono innanzitutto attribuire delle caratteristiche adattabili ed estendibili, tipo elastico, manina delle patatine, quella, ad altri soggetti, la manina delle patatine in testa al vicino di banco, utilizzando il nome proprio di un determinato individuo a partire dalle qualità specifiche di quest'ultimo. Quindi, sei un vero? Attila, perché abbiamo aperto la puntata con questo frammento delle nostre teche. Fantastico, anche veramente politicamente scorretto. Mamma mia. Perché appunto Attila era un distruttore per antonomasia e di conseguenza il suo nome viene esteso a una caratteristica personale, che è quella di essere un distruttore. Ma si dice in Toscana essere un unno? No. Qui no. Che da noi si dice, però Attila non era unno. No. Attila era? Spapparo. Spapparo. No. Spappari! Mi è venuto in mente questa cosa perché ha detto essere un unno. Che con Attila non c'entrava un cazzo di nulla, però dalle mie parti si dice. Ma non si dice semplicemente perché è difficile da dire un no. Tenun, non si dice, te proprio nun. E quindi ci si riferisce poi a un individuo con un epiteto che sembra partire dalla qualità del soggetto, diviene un modo per indicarlo, il pianeta rosso, che è Marte. E Attila era uno. Sì. Era uno. Ce lo dicono alla mail, alla nostra mail. Sono velocissimi, tra l'altro. Solo quando c'è da farci le annotazioni, i rimproveri. Ma mi sento male, davvero. Cioè, ma come è possibile? Smettete di scriverci le mail. Ecco. Anziché scrivere mail per dire quanto siamo brave, quanto siamo intelligenti. Esatto, e colte, sapienti, pozzi di conoscenza. Virtute e conoscenze. Incontrate il maligno. Entreremo a suon di ciaramelle e nacchere. Ecco. Disse Fontanier. Ha incontrato il maligno. Dove il maligno, per antonomasia, è un demonio. Ma non abbiamo mai messo Bracardi, sì. Ma forse sì. Non abbiamo messo quella sua hit particolare, perché quello potrebbe essere effettivamente una chiosa bella sull'antonomasia. Io ce l'ho nella mia cartellina delle scorte Brusca. Quindi attenzione, prima o poi arriverà. Non è più carnevale. Al momento giusto arriverà anche lui. Come una sberla data dal babbo quando meno ve l'aspettate. Ecco, sì, che così. Ricordi. Arriverà così. Ecco, sempre Fontanier ha definito l'antonomasia, sentite che bellina questa definizione, la sineddoche d'un individuo. Cioè, la sineddoche in latino, sì, buona, in italiano è una figura retorica che viene definita come il comprendere insieme. È un procedimento linguistico ed espressivo che, diciamo, è sia un procedimento linguistico espressivo per quanto riguarda la linguistica moderna, invece per la retorica è una figura appunto retorica e consiste nella sostituzione tra due termini in quantità, in relazione quantitativa, quindi in quantità. La parte per il tutto o viceversa, il singolare o il plurale per viceversa. O viceversa, che sto dicendo? Sì. Sì, più una parte, come per dire, il tutto è il giovane del giorno d'oggi si comporta male. Esatto, è una sorta tutti. Di singolare, generalizzazione, sì. In alcuni casi, in altri invece è il lo dirò al mondo intero, a tutti. Potrebbe essere una sinergia questa. Lo dirò al mondo intero. Questa non lo so, ma ci potrebbe stare, sì. La parte per il tutti. Forse un po' forzatina, ma potrebbe essere. Sì, ci potrebbe stare. Ora ci ragiono un attimo, mi faccio uno schemino. Ecco. E ovviamente però per parlare, diciamo, cioè per comprendere appieno l'antonomasia, dobbiamo capire come avviene la cosiddetta sostituzione, no? Quindi come una caratteristica diventa estendibile ad altri soggetti. Però, che dice, prima di dirlo, questo trucchettino, ci ascoltiamo un brano, sì. Facciamo sì, pausa musicale. Sì, perché oggi abbiamo saltato la sigla, quindi dobbiamo recuperare con altri pezzi. Sì, oggi abbiamo fatto un intermezzo cinematografico. E che cinema? Cinemissimo. Una bomba. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to vote. In the best-selling shallow. is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote us on. Finale di Life on Mars, Metas e Memi di tutto il mondo, unitevi. Perché documentandoci un attimo abbiamo appena scoperto che non l'antonomasia quanto la sineddo, che fa parte di un insieme di figure retoriche che viene chiamata Metas e Mema, assieme alla metafora, per esempio, alla metonimia e all'ossimoro. Sapevatelo. E quindi si diceva le modalità di sostituzione, quindi come riusciamo ad ottenere la cosiddetta parte, se così vogliamo dire, per il tutto. Allora, può avvenire così. Oh, ride, ride. Rido, no, rido perché in, nei rispettivi delle figure retoriche, non nella lingua italiana, ma nelle figure artistiche, la sineddo che viene spesso citata come la manina di Dio nei quadri gotici che compare in alto. Non so se hai presente gli affreschi, ogni tanto sì, c'è qualcosa che rimanda a questa manina. E la manina è tutta monca. Il pezzo manina è l'equivalente di Dio tutto. E allora, niente, mi era venuta in mente la mano, la manina. Le manine a becco. Tipo, esatto, la manina del signore. La sineddo che in effetti. Sì, sì, lo è. Anche dal punto di vista visivo è una sineddo. Perché sì, non può essere assolutamente raffigurato il nome di Dio a Ivano. Non può essere assolutamente raffigurato, sì, teoricamente, Dio, per cui usiamo sì, questa metodologia. E quindi vedete come in realtà La Brusca è una trasmissione che tocca davvero vertici così distanti e così vicini tra loro. Chiaramente. Un nome comune al posto di un nome proprio. Il poeta si rivolse a lui con le seguenti parole. Il poeta, chi con la P maiuscola, chi sarà mai Bembo? No, è Dante, ovviamente. Che tra l'altro ormai ci sta perseguitando, sta perseguitando chi ci ascolta. Per forza, ogni tanto ritorna. D'altronde. D'altronde. L'ho visto anche ieri sera la statuona macrocefala in Piazza Santa Croce. Mi fermo sempre a guardarla con un faro un po' così, non mi torna, c'ho sto piedone, vabbè. È grosso come la testa. Ma perché non era previsto metterla lì? E quindi quello fa la differenza. Lì e in nessun altro luogo al mondo. Da nessun'altra parte. Maybe. Dario, la togli? Mm. Dario? Ti vengo a prendere per le orecchie. Mette, a posto di una fioriera? Certo. Dario? Il Dantone. Un piede. Sai che bello sarebbe un piedone di Dante? Ma hai visto quei lucchetti orribili? Mamma mia. Dio, è agghiacciante. Troviamo una sineddoca per i lucchetti, qualcosa, perché davvero... Che tresciata, vabbè. No, sono veramente brutti, oltretutto mi ricordano... Cioè, è tutto un collegamento a cose brutte. Marchio di moda brutto. A cose orribili. Sì, certo. Città, cioè, aperta, no? Firenze. Sì, capito il senso, il perché li metti. Sì, già sì. È una cosa agghiacciante di suo. Poi lo fai così. Si associa a un'usanza orribile che porta a un film ancora peggio. Oddio, cioè, una roba che... Ponte Milvio, stai dicendo quello? Sì, mamma vabbè. Mia. No, volevo fare polemica, a me è venuto così dal mio cuoricino, cuoricino più profondo. Sincero. Il mio cuoricino ha parlato. Vabbè. No, vabbè. Sei un Einstein. Sì, vedi, ecco. Diciamo un commento tutta. Che proprio calza a pennello la nenia è: sei un Einstein. E tu sei un poeta. No, tu sei un Einstein, tu sei un poeta. E questo è un secondo tipo di antonomasia, detta anche vossianica. Cioè dal nome di Gherardo Giovanni Vossio, che ha attribuito all'antonomasia una reversibilità simile a quella della sineddoche, cioè la parte per il tutto e il tutto per la parte, che è molto probabilmente la forma di antonomasia più conosciuta e più utilizzata. Ed è datata, diciamo, tra 1500 e 1600, per cui un periodo in cui le figure retoriche erano particolarmente utilizzate, soprattutto questo tipo di figure retoriche. Poi abbiamo il mecenate, per esempio, no? Sempre a proposito di queste antonomasie vossianiche. Cioè riferito a una persona dedita al mecenatismo, quindi al sostegno finanziario della cultura, dal cognomen di Gaio Clinio Mecenate. David Bowie si è comportato da mecenate con numerosi artisti. Cosa verissima, anche il mio adoratissimo Brian dei Placebo, se non c'era, David Bowie non sarebbe mai uscito il primo disco il primo e il secondo disco dei Placebo, che sono da ascoltare, gli altri fanno cacare. Cicerone, e qua riparte l'invettiva dell'Elena, che viene dalla stessa città di Savonarola, ovviamente, quindi alza il dito. Ah! Vabbè. Cicerone, no, comunque non è vero, i Placebo li voglio un gran bene. Riferito a persona che illustra o spiega l'arte, la storia e la cultura ad altre persone, ed è particolarmente utilizzato durante le visite turistiche a Firenze, soprattutto a una città museo, dal cognomen di Marco Tullio Cicerone. Siamo andati a trovare Davide a Firenze e lui ci ha fatto da Cicerone durante tutta la visita. La perpetua, termine che indica l'assistente personale di un sacerdote, da perpetua domestica di, ovviamente, Don Abbondio nei Promessi Sposi. Il prete assente, ma poi consegnare la lettera alla sua perpetua. Dicesi perpetua anche dalle mie parti una persona che ficca il naso troppo spesso negli affari altrui, perché la perpetua dalle mie parti è famosa per essere quella che va a rovistare nelle mutande del prete. Non so se è piegata all'interno del cassetto e indossate. Comunque. Non sono cose che ci riguardano, perché siamo una trasmissione alta di cultura e di, come io dire, lo e, sai, e di tresciate, però, perché appena me l'ha detto. Sento dire alto e cultura nella stessa frase parto, è più forte di me. Che e cosa sta? Ti ho trovato una perla. E lui? Posso? Sì. Posso. Io ho visto qualcosa. No, non ci posso per credere, i momenti ragazzi, più alti dell'Accademia della Brusca. E anche un omaggio alle ultime uscite cinematografiche di questi giorni. È un omaggio a tutto. Tu pensa a qualcosa, è un il coil tu, dell'omaggio, è la spirale qui dell'omaggio. Tutto. Dopo Drive-In è tutto qua. Testa di grasso. Oh! io vado a zozzo come lo strozzo. Oh, oh, che felicità, mi sono rotto i coglioni della vita, mi imbriaco per trovare la via d'uscita, con la droga faccio un sogno e poi mi addormo, poi mi sveglio e ricomincio a canticchiare. Io sono stronzo, testa di cazzo, oh, oh, oh, oh, oh. Io vado a stronzo, come lo stronzo, oh, oh, che felicità, una stronza che ho passato mezza vita, era andata e smazzato la ripulita, poi è tornata con lo stronzo ermafrodita, corpino mi volevano ammazzare. Io sono stronzo, io sono stronzo, testa di cazzo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Io vado a stronzo come lo stronzo. Oh, oh. Hai capito? Avete sentito che meraviglia, che pezzo. Ci stava proprio bene. Calzava. In realtà avremmo, e forse se riusciamo a trovarla perché è abbastanza rara, vi proporremo una versione cantata. Anche da delle perle. Esatto, da quello di cui parlavamo prima, un protagonista fittizio, assoluto, attoriale, delle ultime uscite cinematografiche, che molto probabilmente mi perderò. Beh, temo anch'io, guarda. E in tutta questa lista di antonomasie abbiamo l'anfitrione, padrone di casa e ospite generoso, come il soggetto che potrebbe essere protagonista della canzone sopracitata appena sentita, dal nome del mitico re di Tirinto. Quando siamo andati a casa di nostro cugino, ci ha accolti davvero anfitrione e colmato di doni. Sosia, questa io non la sapevo. Persona molto simile ad un'altra, cosa che a me succede sempre. Ieri in bus mi hanno preso per un polso e mi hanno guardato: ma tu ti chiami Francesca? Io, no. Potevi dire di sì. Mi chiamo Magari Pmela. Ti si apriva un'altra vita. E... ah no, perché sei uguale. Grazie. Vedi? Vabbè. E quindi... io ho un sosia, e secondo una leggenda metropolitana, Charlie Chaplin partecipò a un concorso per i suoi sosia e perse. E non ha vinto, capito? Ma comunque sosia è una persona... La Barale, quando Madonna considerò sua una foto che invece era della Paola della Barale. Madonna, come non riconoscersi. Quando saremo famose succederà anche a me, sappilo. Chiaramente. Ma già vedi, ti sta succedendo sull'autobus. Però... il primo passo è questo. Gli dirò: no, sono la Nina. Nina, Nina, Nina. E quindi il sosia, persona molto simile ad un'altra, che deriva dalla commedia di non riesco a parlare. Plauto, l'anfitruo, dove Mercurio si traveste in modo tale da apparire simile al servo di Anfitrione, che si chiama appunto sosia. Sole. Lo sappiamo tutti, è il nome della stella che ci dà calore, a volte anche troppo. E, è una stella dotata in realtà di pianeti, secondo la figura retorica che stiamo trattando stasera, no? Quindi una delle sfide che il futuro può riservarci è l'esplorazione e la colonizzazione di un mondo alieno alla luce di un nuovo sole. Capito? Va. Poi abbiamo la Luna, stessa storia. Fra le lune di Giove, le principali, sono i quattro satelliti Medicei descritti da Galileo, oltretutto in un posto bellissimo che è sopra Via dei Bardi. E quindi Luna è un satellite naturale di un pianeta che prende appunto il nome dal nostro satellite della Terra, satellite terrestre, che è per antonomasia satellite di tutti i satelliti. A satellite. Ah, satellite mi... E poi il Vandalo, l'Unno, che sono un po' distinti come provenienza. Però una persona che si macchia del reato di vandalismo, ossia la distruzione e il danneggiamento di cose. deriva dal nome di una popolazione germanica conosciuta per essere effettivamente alquanto invadente e distruttrice. Guarda che disastri combinati, hai fatto cadere tutti i vasi rompendoli, sei un vandalo. A casa mia si chiama in un'altra maniera. Stronzo, per esempio. Anche. Testa di cazzo. E in certi casi all'antonomasia vossianica si accompagna uno slittamento di senso, come nei casi di Megera, Vulcano, Cicerone, per esempio. E un nome per un altro nome, che è sempre un tipo di antonomasia, è Ghino di Tacco, per dire Craxi, Ghino di Tacco. O un epicureo, per esempio, quindi un nome comune per indicare un individuo, ma anche la categoria, a cui questi appartiene e ne viene associato a partire dalla considerazione di una qualità che viene ritenuta esemplare. Sei un epicureo, sei uno stoico anche. Diciamo che più o meno siamo sullo stesso piano di lettura della cosa. Ma io sono stanca di parlare. Proponimi! Io ti propongo una cosa presa dal cappello degli anni passati. Oh, che ci piace sempre. Non lo so, non l'abbiamo mai messa, mi interessava riproporla così per... Remember. Cosa vedi, amico mio? Solo la solita vecchia pentola. Acqua bollente, carne, ossa, patate. Nessun messaggio questa vecchia pentola, solo che la zuppa è buona e ti fa capire chi ha fame. Ma io sono un indiano. L'acqua che bolle è il cielo, la carne gli animali, il vapore il respiro. Tutto questo è sacro. Quando io guardo la pentola penso al mistero. Vento, pioggia, sole, capirli non con la testa, ma col cuore. Sediamoci nella pianura, voglio essere come un albero, voglio pensare come un animale. Annusa l'aria, io cavalco nella pianura, e mi sembrava che i rami degli alberi navigassero nel cielo. Ho pregato per gli animali, per il gran turco e per i meloni, camminavo dentro l'erba alta e ascoltavo tutte le canzoni. Non sono sordo, non sono sordo, io porto le pietre sacre, stavo fermo senza guardare, ascoltavo le formiche parlare. Ringrazio i fiumi e i ruscelli, ringrazio la zucca ed il fagiolo, è bellissimo questo mio popolo, è bello questo cielo. Quanta luce nel mio cuore, vale la pena vivere, vale la pena morire. Io voglio camminare felice, io voglio camminare nella pioggia, io voglio camminare sul sentiero del miele, io voglio camminare nella gioia, io desidero camminare. E mi hanno detto che non era vero, che ero soltanto fuori di me, che avevo preso troppo sole al mare con tutto il sole che c'è. Troppo sole, troppo sole. Perché ulula la luna, è veramente mio fratello quando ulula la luna. Battono i tamburi, battono sotto la luna. Io danzo sulle nuvole, io danzo al chiar di luna. Voi volete che tagliamo l'erba, voi volete che vendiamo il fieno, per diventare sempre più ricchi e per sognare sempre meno. I sognatori sono messaggeri dello spirito del mondo. Tutte le nostre canzoni noi le abbiamo imparate in sogno. Il povero uomo bianco, nella tua violenza, nel tuo splendore, hai perduto la tua memoria, dimenticato d'avere un cuore. Vuoi la mia memoria per il tuo cuore. E prendi tutta quella che vuoi, prendila tutta, me ne resta ancora. E gli occhi dell'aquila in me, e la mitezza della lepre in me, e la forza dell'orso in me, il silenzio dei pini del bosco, e la dolcezza della mia bocca. E vanno detto che non era vero, che sono tanto fuori di me. Lunga vita, sforami col tuo respiro, donami una lunga vita. Ti ho decorato con le mie perle, ti ho tagliato e ti ho cucito. Sforami col tuo respiro, donami una lungamente. Sogni sono messaggeri dello spirito del mondo. Sogni sono messaggeri e danno forza ai sognatori. Chi lavora sempre non ha tempo per sognare. Solo chi sogna si potrà salvare. E la bellezza si è davanti a me. E la bellezza si è accanto a me. E la bellezza si è intorno a me. Tutto sarà bellezza. Io tanto sono terra rossa. E me ne dico che non era vero. Che ha soltanto fuori di me. Troppo sole per me, per lei, per la nenia. Troppo, sì, sempre troppo, troppo. Fotofobia. Fotofobia, esatto. Sarà la parola dell'estate che a breve si aprirà. E, possiamo andare avanti ancora un pochettino in questo nostro viaggio, se così vogliamo dire. Come mai mi sento male? Mi sento. Sì, sì. Ci sentiamo. Gli esterni perché mi dicevano che c'era un po' di riverbero di cui non ci rendevamo conto. La caverna del Wombat. Allora abbiamo anche un'antonomasia come perifrasi, ok? Quindi una... facciamo un esempio. L'antonomasia si presenta in forma di perifrasi, l'abbiamo sentito prima nella nostra pseudosigla di stasera con Attila, il flagello di Dio, la Mecca degli evasori. E queste forme possono essere metonimiche, l'inquilino del Colle per il Presidente della Repubblica Italiana che risiede al Quirinale. Che quindi... in questo momento sta passando dei momenti veramente... difficili. Sì. Hai scelto proprio un mestieraccio. Esatto, caro mio. Esatto. Vabbè, ma lasciamo, devi fare una polemica anche su Mattarella, ma non, è, non è questo il luogo e i microfoni. A partire dagli anni 70. Esatto. Sì. Quindi lo spostamento per sostituzione del nome va oltre il limite concettuale della nozione da indicare. Bellissima questa. Sì. La pantera di Goro, l'aquila di Vigonchio, la pantera di Goro, tutte comunque dalle mie parti. Sì, anche la tigre. Di dov'era la cosa? È di Cremona. La tigre di Cremona. Ma Cremona è da Lombardia. Sì, sì, è già. Ora. Comunque siamo però sempre lì, dai. Sentite anche io che voce che ho. Milva, la pantera di Goro. I Mazzanicchi, l'aquila di Vigonchio, ma aquila per via del naso, non tanto per le doti canore. Anch'io, né quelle visive. Ma anche se all'epoca la Iva spaccava i timpani e non solo. E grazie al nostro Paggio che ci ha portato, ci ha abbeverate, ci sta abbeverando. Se ne va tipo quasi, cretino. Ti ho detto che sei un cretino di fronte a milioni di ascoltatori. Milioni. Ovviamente, ecco, anche cretino potrebbe essere un'antonomasia. Ecco, si è vendicato, chiudendo la porta della regia rumorosamente. E, è successo qualcosa. Ma noi andremo avanti. Andremo comunque avanti ugualmente. E l'ultima tra queste, diciamo, metafore, quasi, queste antonomasie metaforiche, sono appunto, è appunto Mina, la nostra tigre di Cremona. Ma poi arriviamo anche all'attualità, cioè non è che vi stiamo a parlare solamente di luoghi comuni, di modi, luoghi comuni, di modi di dire. Vi parliamo anche di antonomasia e di media. Poi ci ascoltiamo un pezzettino perché poi si passerà alla pubblicità, al gergo comune. Insomma, abbiamo qualche cosina da raccontarvi ancora. E, il rapporto tra antonomasia e tra media o media, io dico media, è molto stretto. Ed è appunto questo rapporto che intercorre tra l'antonomasia di cui stiamo parlando stasera e il linguaggio che, dei mezzi di comunicazione. Quindi si va oltre quello che è il linguaggio corrente. Perché le antonomasie esaltano questa loro condizione di associazione stereotipata, no? Mi ero un po' preceduta prima quando ho detto luoghi comuni, effettivamente è un po' un'associazione stereotipata, che vengono accompagnate spesso e volentieri da un'enfasi. E in questo caso assumono ovviamente uno scopo ironico o per lo più satirico, se in Italia sappiamo ancora che cos'è la satira, vecchia polemica. Allora, Sua Santità, Sua Eminenza, per esempio, sono termini che vengono, soprattutto su Eminenza, è stato utilizzato nel giornalismo per diverso tempo riferendosi al Berlusconi nazionale, che ormai è diventato veramente... Che poi... Ormai gli si vuole bene, ragazzi. Poi è stato trasformato in Sua Emittenza. In Sua Emittenza, grazie al biscione. E queste caratteristiche di utilizzo molto particolari rendono alcune di queste antonomasie un materiale... diciamo di rapida estinzione, no, all'interno del linguaggio, perché sono strettamente legate a quelli che sono i periodi informativi politici e non, e quindi molto spesso, essendo così legate alla pubblicità, all'informazione, alla politica, tipo mi ricordo anche qualcosa della pubblicità, buonasera. Che non era ovviamente un'antonomasia, però effettivamente era diventato quasi un'espressione idiomatica per via di quello spot terribile la macchina, stasera esco, vado col primo che incontro. Era una macchina? Sì, mi sembra. Sì, una roba della Fiat, mi sa. Sì. E basta. Questo per quanto riguarda i media. Il biscione, che ha a che fare con tutto l'impianto televisivo del signor Berlusconi, che, come disse Carla Bruni, Berlusconi il è un pubblicitaire. Quindi, prima di parlarvi dell'antonomasia nei prodotti commerciali e nel gergo, vi facciamo sentire un pezzettino, così riflettete. Io lo sai, appena la nomini, quanto... la devo tirare in ballo. Vai. È più forte di me. Poi con questa estate che sta cercando di arrivare, abbiamo parlato di sole, la mia melanina mi si è tutta scossa sotto non al è derma. Sola. Sole, sole, sole, Solange. Non è Solange. No, mi si è sconquassata tutta la melanina. E allora lei. Ti meriti è questa, lei. Sì. È una delle tre antonomasie cantanti stasera. Sì, è proprio lei. E vai. Dai. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella color latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle. Diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna è candida come te. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sei sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Thank you. qualcuno ci ha sabotato il microfono. Questa canzone è bellissima. Io la riascolterei tutta la sera. Ora la metto come suoneria nel telefono e poi mi prendo a schiaffi da sola. Potresti metterla però anche come sottofondo della puntata. Wow, il sole. E luce fu nella regia del bombo. Ci scordate di accendere la luce, Nina. Meno male che abbiamo qualcuno che ci accudisce. Davvero grazie, ci accudisce, ci alza i microfoni mentre facciamo le cretine. Ci siamo un po' intimidite però. Sì. Eravamo molto più brave, vero, prima di tirare sui microfoni. Nessuno lo sa, ma qui ci sono due soprani ai microfoni. Fanno segno di sì con la testa, eravamo bravissime, poi la timidezza ci ha fregate. L'altro giorno ho detto a qualcuno che ero perché cercavo dei riferimenti ma poi andavo a parlare altrove. Ho detto tipo no, sì, ma perché sono timida, e 15 persone si mi hanno riso in faccia dicendo scusa. Ma sono rimasta male. Ci sei rimasta male poi. Sì, perché un po' era vero quello che stavo provando a dire in quel momento, esatto, cioè, un po' sì, però vabbè, nessuno mi ha creduto. C'è chi mi dice che sono sfacciata come un cane in chiesa. E proprio hai l'immagine di un cane che entra in chiesa e magari fa la pipì negli angolini. E poverino, che deve fare il cane? Infatti, il cane fa il cane. Il problema è che dicono che io sono sfacciata come un cane. Allora ti voglio vedere entrare in Santa Croce e fare spiscettare. Bellissimo. Vabbè, cazzi miei a parte, andiamo avanti. La timida Nenia mi costringe. Ti costringerò ad andare avanti, no. Via, bisogna proseguire nella nostra missione. Anche perché del... questa è la parte che più ci quasi darà di analisi, degli esempi comprensibili, anche più quotidiani di routine. Esatto, di molto, routine. Di routine. La routine. Sì, come sicuramente con routine. Quell'accento. Allora, anche grazie alla pubblicità che li ha resi popolari, alcuni prodotti commerciali, quindi parliamo appunto di questo ora, sono spesso denominati per antonomasia con la marca leader nel loro genere, con il marchio con cui sono stati introdotti nel mercato: il Rimmel, lo Scottex, il Kiwi e molto, diciamo, in tempi molto più recenti a noi vicini, l'iPhone. Questo è un errore, ma comunque l'iPhone per definire gli smartphone, e il Kindle, un pochettino meno conosciuto come, diciamo, antonomasia, ma effettivamente c'è, per definire tutti i libri elettronici e gli ebook. Ah sì. Anche i Kleenex. I Kleenex, guarda, ce ne sono. Tante, sì. Il Bostik, la Vinavil è solo Vinavil, però il Bostik per definire tutti i siliconi, la Vinavil forse per definire tutte quelle colle. Le colle, quelle pastose. Viniliche, sì. Che bello farsi la pelle d'asino. Sì, e poi strappicchiarla, si tripri. Secondo me anche la Coca-Cola un pochino, perché visto compri la Mi hai tolto le parole, non devi dare i soldi nella Coca-Cola, però ho preso la Coca-Cola. Sì, ci sta che tu lo dici. La Coca, la Coca, sì. La cola, noi lo diciamo, è, ecco, una antonomasia americana è la cola. Ok, sì. Cola per loro è tutto ciò che è Coca-Cola, che è Coca, sì, anche è la Pepsi è una cola. Ma invece dicevi interessante prima del mi sembra geograficamente. Sì, sempre per riferirsi alle antonomasie geografiche, noi commettiamo, e si sa, un errore particolare in italiano, che è quello del dire Inghilterra per definire, quindi una parte per il tutto, per definire il Regno Unito. La stessa cosa fanno gli americani. Ecco, non era come te l'ho detta, è così. Senti, era praticamente gli americani, generalmente, anche gli inglesi penso, fanno un piccolo errore, che è quello di definire Holland tutta la parte delle Netherlands. Quindi Holland è in realtà l'Olanda, ma Netherlands è tutto quello che riguarda anche, diciamo, i paesi fiamminghi, una parte del Belgio, una parte di Lussemburgo. Ok. E quindi anche questa è effettivamente una parte per il tutto, sebbene magari erronea, però comunque rientra sempre negli esempi geografici. Sì, come che quella dell'iPhone, fatto. In realtà. Esatto. Certo. E non solo, abbiamo anche l'antonomasia, chiamiamola di gergo. Quindi, diciamo, antonomasie relative a ambienti, culture, epoche e paesi. Quindi... sembra bel giochino. Luogo, città, frutta, città. Anche io non me lo ricordo mai. No, è perché si diceva così. No, mi cuore per città. Ah, giochiamo a Vrese, città. Ecco, e in generale le antonomasie possono essere considerate attive in specifico rapporto a determinati, come si diceva, ambienti, culture, l'epoca, paese, città. Ad esempio, fino al 1000, sentite che bella questa, ci siamo come al solito impadroniti le cose, ma fino al 1860-61 l'eroe dei due mondi, e quindi les héros des deux mondes, non era Garibaldi, caro mio Giuseppino, cara mia ingenuota, dove pensi di andare? Pensavi fosse Garibaldi, con quella camicina rossa lì, dove pensi di andare? Con quella gambetta la gambetta là. Ma era il generale Lafayette che aveva combattuto in America nella sua giovinezza, ragazzi. Cioè, capito. Avete capito? Ma sta brusca, guarda, ne sa una più del diavolo. Lafayette, rivoluzione francese, un pochino dopo. Sì. Ci mettiamo sempre nella merda, non avete capito? Perché poi abbiamo i riferimenti linguistici, ma ci manca ogni tanto il riferimento storico. Quelli storici ci mancano. Apriamo l'appello per chiunque volesse, ovviamente con competenza, fare una trasmissione di storia. Che bello. Ma storia... storia dell'arte prima o poi io lo faccio, vi avviso. Io potrei... è mia, nessuno può scavalcarmi in questa... Faccio uno spoilerino anch'io. Sì, dai. Molto probabilmente, se mi riuscirà di gestire la cosa, quest'estate vi sollazzerò con il mio bellissimo accento emiliano a fare le letture sotto l'ombrellone. Mi piacerebbe tanto leggervi qualche giallo Mondadori, qualche Urania o forse chissà tutto il compendio di Lovecraft. A proposito di arte e di storia e di tutto, ma gli abbiamo dati gli annunci del fine settimana? Ovvio che no. Perché c'è una cosa bellissima a Firenze, nord-est, Castello, e domenica 13 maggio. Domenica 13 maggio, ritrovo alle 14.30 al circolino di Castello, in via Reginaldo Giuliani, numero 7. 375, ho detto a caso. Sì, però sì, vedrai, sarà lì più o meno. Che succede? Si parte da lì, c'è una visita guidata bello. per le ville Medice della Castello. Zona di Castello. Che credo il percorso sia, ma dopo controllerò se faccio degli errori mi correggerò, l'esterno di Villa Corsini. Vai, ti trovo una cosa su YouTube. Villa Corsini l'esterno e l'interno di Villa Petraia. Quindi ritrovo al circolino, caffè, amaro, chi più ne ha più ne metta. Qui la Nina cerca delle robe mirabilanti sull'etere. E dopodiché, appunto, Corsini, Villa Petraia, tutto gratuito, gita con guide turistiche, chiaramente. Quindi se non avete mai visitato queste ville, o se le avete visitate ma da tanto tempo e vorreste vedere se sono state modificate o semplicemente vi volete fare una bella passeggiata, alle 14.30, domenica 13 maggio, al circolino di Castello. Sarà molto bello, queste zone che abbiamo descritto sono meravigliose, molto belle, sono come dire particolari perché sono, diciamo, simili alla bolognese come vegetazione, ma sono alle pendici del Morello, e soprattutto ci sono tutte quelle che erano ville, riserve di caccia, boudoir dei medici, non solo, perché poi la storia è molto lunga, parte con i medici ma finisce con i Savoia. La bella Rosina, insomma, ci sono un sacco di cose, per cui noi vi consigliamo vivamente di seguire questa bella passeggiata. E di poi è gratis. È gratis, e ci sarà pure l'aperitivo forse, chissà, sì. se sul finale saremo bravi, sì. Perché ci sta che andremo anche sì. Noi. Sì, sì. Chissà. Pare. E quindi hai visto, ma c'è anche, si principia anche il culturale. Esatto, e quindi che dire? Allora, io prima ti ho sentito nominare la monaca, o l'hai nominata? No, non l'ho già ancora la nominata, ma la nominiamo ora. Perché io ti ho trovato ora. Una cosa interessante. L'ho visto in scaletta e allora avevo pensato di farti vedere qualcosa. Dai, così poi la spieghiamo. Io ho capito di cosa stai parlando. Lo vuoi sentire? No, io sono la monaca di Ponza. Sì, lo so che è una battuta banale, ma purtroppo vengo da lì. Sono nativa di Ponza, proprio dell'isola. Non posso aiutarla, mi dispiace tanto. Arrivederci, cara. Bella. Quanto ci manca Anna Marchesini nella monaca di Ponza. Oddio, non posso farsi altro, io sono veramente nativa dell'isola. Che capolavoro, come fa a studiare con divertimento il Promessi Sposi, davvero, ai ragazzi, davvero. Genitori all'ascolto, cercate di spronare il liceo e sta studiando così. I Promessi Sposi, sappiate davvero. Che avete un asso nella manica. Li leggerà più volentieri, come ho fatto io immaginandomi Lopez è vestito chiaro. Da monaca. È chiaro Monza. Che si parte prima da quello, dopo viene tutto il resto. Dopo viene anche l'edizione delle Inaudi, dopo, quella però, la casa d'oro. E soprattutto è come quando vediamo prima un film e poi ne leggiamo il libro da cui sì, è tratto, è no? Vero. E quindi la nostra mente è un immaginario cioè rilevi mentalmente l'immagine che hai già avuto. C'è un aumento della percezione e della comprensione dell'80%. Ecco, ragazzi, sì. Per cui insomma tanto si trovano ovunque, si trovano su YouTube, si trovano facilmente davvero ovunque, per cui sì. Genitori, zii, YouTube, insegnanti. Biblioteche, ci sarà qualche cugino, qualche qualcosa. Zio che ce li ha sì, registrati nel cofanetto. Da qualche parte. Che belli. Perché abbiamo parlato della monaca di Monza? Perché è un'antonomasia particolare. Gertrude, la monaca di Monza. E qui siamo in un ambito letterario un po' chiuso, non ristretto, era chiamata per antonomasia la signora all'interno del suo monastero. Bella. Che dire? E lo sai che devo passare anche a questo, chiaro? Non potevo. Non si poteva. Metterlo da parte. L'uscio, entrata nel parlatorio, si trovò davanti alla signora di cui tanto le aveva parlato Fra Cristoforo. Scorse dietro una grata di ferro una monaca ritta. Era la monaca di Monza. Il suo aspetto faceva un'impressione di bellezza, ma di una bellezza sbattuta, sfiorita, quasi scomposta. Un velo nero cingeva il volto, scoprendo una fronte pallida che si raggrinzava spesso, e allora due sopraccigli neri si avvicinavano con un rapido movimento. Due occhi, neri anch'essi, talora si chinavano in fretta, come a cercare un nascondiglio, come se chiedessero affetto. Ora invece fissavano con investigazione superba Lucia, che veniva avanti esitando. Reverendissima madre. Vieni giù, cara mascalcecca! Sì! Signora illustrissima, Fra Cristoforo mi ha inviata da voi per ottenere asilo e protezione. Accostatevi, quella giovine. Sono io colei che cercate. Sono la monaca di Monza. Signora, madre. Raccontatemi più particolarmente il vostro caso, perché io possa fare qualcosa per voi. Perché io possa fare qualcosa per voi. Sì. Che capolavoro. Dio, ragazzi, non ne fanno più così, non ne fanno capolavoro, più. Capolavoro, veramente. Davvero, intelligente, sagace, astuto. Stupido per certi, certi verdi della monaca di Monza. Però veramente una fantasia infinita. Grazie tantissimo al trio perché ci hanno fatto un regalo enorme, enorme. Questo e non solo. Vabbè, vabbè, che dire, siamo arrivati. Siamo in chiusura, alla fine. È tardi, sono le 20:32 per chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolterà in replica, ci ascolterà il sabato mattina e la domenica pomeriggio. Esattamente. Sabato mattina alle 10, domenica pomeriggio alle 14. Prima forse, sì, ok, esatto. E quindi nulla, non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento. Grazie per la pazienza, sì, che avete avuto, chi ci grazie sta ascoltando in diretta significa che ci ha aspettato per un mese e ve ne siamo grati. Davvero. E, siccome siamo delle persone riconoscenti, abbiamo pensato di farvi sentire l'ultima canzone della diretta, esatto, che è un capolavoro, tipo il capolavoro numero 2 dopo Tintarella di Luna. E allora vi salutiamo, i contatti li abbiamo dati, l'evento della cosa settimana, quello soft, ve l'abbiamo detto. Per tutto il resto continuate ad ascoltare le altre trasmissioni, vi ricordiamo che dopo c'è 8 Hertz, sì, alle 9. E, quindi siete in tempo ad andare a ordinare le pizze per ascoltarci. E poi controllate sempre nel sito le variazioni del palinsesto, ascoltate i podcast perché tutte le trasmissioni sono bellissime. La settimana, esatto, prossima vi ridaremo dei modi di dire dedicati alle trasmissioni wombatiane. Oh, una puntata che la Nenia sta studiando da mesi, sì, ragazzi, sì, quindi sì, non sì, mancate. Sì, sì. E forse chissà ci sarà qualche ospite. Chissà. Chi lo sa, vediamo. Surprise. Surprise. Vi lasciamo, baci a tutti. Ciao. Ciao. Quanto vorrai, tonight riposerai, non hai pianta di me, esagerata, nessuno esagerata come te. All'alba tu resterai e me, un lungo bacio vuoi, baci sempre, baci anche se mi piaci, fuggire mi vedrai, cacciare nei guai, se non la smetti certo mi perderai, a così deluso di te per questa Waterloo, esagerata per sempre nella nebbia sparirò. Mi perdo.